Pablo Picasso, raccontato da Barbara Alberti. Picasso incontra quella che diverrà sua moglie, Olga Koklova, ballerina russa, nel 1916, un anno prima della rivoluzione, e la sposerà nel 1918, un anno dopo la rivoluzione. Perché l'ha sposata? Era alta. Non era neanche brava come ballerina, ma è presuntuosa e gelosissima. Lui la dipinge come una donna noiosa. Quando esagera con le scene di gelosia, Picasso la prende per i capelli e la trascina per casa. Ma stavolta il torturatore ha trovato una torturatrice del suo livello e lei cercherà di rovinargli la vita. Nasce un figlio, Paolo, che a Picasso è antipatico da subito e lo sarà sempre. Invano il pittore esorcizza Olga dipingendola come madre col bambino. La russa vuole essere una padrona. Dice di essere un'aristocratica spodestata e ci crede lei stessa. E appena si rende conto di che tipino prepotente sia Picasso, lo vede come un mujik ribelle che va rispedito nella stalla a colpi di Knut. Di questo morirà matta tanti anni dopo, per non avercela avuta vinta con lui, che col tempo è diventato un nome ricchissimo e potente, è diventato il simbolo del Novecento. Picasso la odia da quasi subito e lo odierà sempre, ma non divorzierà mai per avarizia, per non darle un soldo. Lui intanto la tradisce con una ragazzina ingenua, Marie-Thérèse Walter. Così ingenua che quando lui la inizia le pratiche sadomaso si mette a ridere. Poi non riderà più e farà tutto quello che lui vuole. Marie-Thérèse gli scriverà delle lettere d'amore per tutta la vita e lui se ne servirà per fare impazzire di gelosia la sua amante di allora, Françoise Gillot. Come ora si diverte a far impazzire Olga, mettendo Marie-Thérèse ad abitare nella casa di fronte alla loro. Marie-Thérèse è mite, così mite che lo annoia. Il dominatore ha bisogno della lotta. Ed è allora che entra ai Deux Magots e vede Dora Maar, cosmopolita, fotografa di fama, idolatrata dai surrealisti, femme fatale. La prima volta che la vede, lei sta facendo un gioco. Sul tavolo del caffè si conficca il coltello fra le dita, ferendosi spesso. La prima volta che la vede, lei ha le mani grondanti di sangue, se ne innamora. Dopo il tradimento, Marie-Thérèse diventa una monaca di Picasso, fedele come in una ballata. Dopo la morte di Picasso, si impicca. Di lui aveva detto: Picasso prima violentava una donna, poi si metteva a lavorare. Che la donna fosse una o un'altra, non gli importava niente. Pablo Picasso, capolavori dal Museo Nazionale Picasso di Parigi, dal 20 settembre al Palazzo Reale di Milano. Info radio24.it